Eccoci tornati su Radio Wombat con Tonino, che è stato interrotto da una cosa incredibile, mai successo. Un cane ha abbattuto la regia del Wombat. Proprio violentemente. Veramente, l'abbiamo sentito guaire e poi è scappato a tutta velocità portandosi dietro mixer, microfoni e quant'altro. Il povero Tonino è stato rallentato. Allora, torniamo a noi. Dunque, stavi raccontando della realtà milanese. La realtà milanese è nata qualche anno fa, in realtà poco prima di Expo, perché pensavamo appunto di mettere su una rete contro Expo. Nel 2012 avevamo già fatto un genuino clandestino a Milano e da lì avevamo messo già insieme diverse realtà milanesi. Poi abbiamo incontrato la fabbrica occupata Rimaflo, che è a Trezzano sul Naviglio, che è una probabilmente l'unica esperienza di fabbrica occupata a Milano e in Italia, e con loro abbiamo cominciato a ragionare di riappropriazione in città e in campagna. Da poco c'era stata anche l'occupazione di Mondeggi, quindi c'è stato un incontro tra Genuino Clandestino, Mondeggi e Rimaflo, e insieme si è cominciato a mettere insieme questa idea nuova di entrare anche nel sistema distributivo. A Milano la rete fuori mercato nasce in origine soprattutto per distribuire i prodotti delle realtà sociali contadine in lotta, essenzialmente le arance da Rosarno, i pomodori da Nardò, dall'area di Nardò, e quindi l'esperienza di Sfrutta Zero, che prepara i vasetti di pomodoro con i migranti. E da lì abbiamo aiutato, quando la prima vendita di olio abbiamo distribuito nel nord l'olio prodotto da Mondeggi, e da lì è iniziato il progetto di fuori mercato, che chiaramente aderisce a Genuino Clandestino ed inoltre sta sviluppando un progetto molto più differenziato in questo senso, che riguarda appunto la distribuzione. Bene. Questo è un po' una sintesi velocissima della vostra realtà. Le altre cose che vogliamo sapere, e che un po' abbiamo chiesto a tutte le persone che sono arrivate qua ai microfoni oggi, è come siete arrivati all'evento di oggi, all'incontro di oggi, quindi come avete dato risposta alla domanda posta come inizio di assemblea. Il famoso domandone. Il domandone. Il domandone. In realtà noi è un po' che ci facevamo la stessa domanda, era un po' che dentro Genuino Clandestino sollecitavamo la richiesta di organizzazione. Tra l'altro noi in particolare, alcuni di noi 2 anni fa hanno fatto un viaggio in Brasile, invitati dal Movimento dei Senterra, ed abbiamo visitato tutta una serie di esperienze di occupazione di terre, non solo, e anche occupazione di fabbriche, e lì abbiamo scoperto che essenzialmente senza un'organizzazione, senza un movimento strutturato, tu non riesci a portare avanti ed organizzare in quel modo sia gli operai in città, nel caso di occupazione di fabbriche, di senza tetto. L'altro elemento che hanno, l'altra novità alla quale ci siamo un po' ispirati, anche l'occupazione delle case appunto in città, così come l'occupazione delle terre, serve l'organizzazione. Per cui quando siamo arrivati abbiamo posto, finalmente eravamo soddisfatti dell'idea che almeno se ne parlasse. Se ne è finalmente parlato, ovviamente come in tutte le reti eterogenee, quantomeno per territorio, c'è stato un dibattito, qualcuno è assolutamente favorevole, qualcun altro è preoccupato, qualcuno è assolutamente contrario. Secondo me Genuino Clandestino ha la capacità, gli anticorpi, le risorse, le intelligenze per poter far sua anche le posizioni, diciamo, negative rispetto a questa proposta. Non sarà oggi, ma nel tempo ormai all'ordine del giorno c'è il tema, per cui probabilmente nei prossimi incontri, ma già da lunedì nelle varie reti se ne riparlerà. Ecco bene, c'è qualcosa che vuoi dire ai microfoni del Wombat, in particolare che riguarda la vostra rete, la vostra realtà e il vostro territorio? Non lo so, notizie. La nostra rete che fa parte della rete, abbiamo messo in piedi anche qui, in questo caso una rete nazionale di fuorimercato, ha organizzato a Roma il 7-8 aprile scorso un convegno su mutualismo e autogestione, e a fine giugno saremo qui a Mondeggi proseguendo questo dibattito sul mutualismo e autogestione, perché una delle idee che ci è venuta è quella di scrivere una sorta di manifesto dell'autogestione dei beni comuni che dia opportunità, oltre a Genuino Clandestino e ad altri, per intercettare tutte altre realtà, spazi sociali, realtà associative, ma anche semplicemente movimenti ecologisti che fanno attività sui territori, di poter insieme scrivere e praticare questo movimento sull'autogestione e sul mutualismo. Bene, fine giugno a Roma? Fine giugno a Mondeggi. Fine giugno a Mondeggi. Durante il compleanno di Mondeggi ci vedremo qui sicuramente, troveremo uno spazio. Bene, se ci vuoi lasciare qualche contatto dove magari gli ascoltatori, le ascoltatrici possono trovare informazioni e eventi? Il sito è www.fuorimercato.com. Facile. Grazie. Bene. Allora, buon appetito, Tonino. Grazie. Grazie a te. Grazie mille. Ciao, buona serata. Ciao. Grande, Francesco. Allora, e quindi, secondo te, ma se noi lasciamo la regia qui per un pochino e andiamo a mangiare? No, c'è Hani. C'è qualche cane che ce lo porta via? No, c'è Hani. Non ci fidiamo. Te fidati, io sto qui, io presidio. Presidi. Ok, sta diventando buio a Mondeggi, signori e signore, ragazzi, ragazze, ascoltatrici ed ascoltatori. Le persone. Ma anche perché dobbiamo un po' decidere un po' che facciamo. Dobbiamo in decidere un po' a un certo cosa punto. Cosa facciamo? Allora, io propongo una cosa. Vieni qui, datti una calmata un attimino. Propongo una cosa. Abbiamo qua il nostro compagno Francesco che ci ha trovato tutte le persone che avete sentito ai microfoni. Stavamo pensando noi di mangiare un boccone come tutti gli altri. Un'ottima idea, vista l'ora. La proposta che abbiamo è quella di mangiare, prendersi un attimo di pausa e poi dopo tornare in diretta magari per dare per una chiusura e per capire che cosa è uscito da questa assemblea, visto che fino adesso abbiamo parlato solamente di quello che è entrato in questa assemblea, almeno in parte, avendo alcuni ci possiamo provare. Alcune realtà ai microfoni. Va bene, allora ascoltatrici e ascoltatori, ci sentiamo fra qualche